Da dove viene la squadra di Avvocati di Strada? Da Bologna. Qual è la storia della vostra squadra? La nostra squadra è composta da volontari dell'associazione Avvocato di Strada. Noi difendiamo gratuitamente tutte le persone senza dimora, cioè chi vive in strada, in stazione, nei dormitori, le vittime della tratta e tutte le persone straniere prive di permesso di soggiorno che purtroppo vivono in strada. E lo facciamo in maniera assolutamente gratuita per i nostri utenti, ma gratuita anche per l'avvocato, perché nessuno di noi può percepire nulla dalle cause che fa. Tutto ciò che viene fuori da queste cause, se la controparte paga le spese legali, vengono devolute dagli avvocati all'associazione. Nessuno prende nulla, è tutto gratuito e lo facciamo per volontariato perché pensiamo che sia giusto che ogni persona possa avere una difesa. Perché aver deciso di partecipare ai mondiali antirazzisti? Noi partecipiamo ai mondiali antirazzisti da 11 anni. L'abbiamo fatto perché ci riconosciamo nei valori dello sport, nei valori dell'antirazzismo e dell'antifascismo. Ci riconosciamo in quei valori che dicono che gli uomini sono tutti uguali e che ci deve essere giustizia per tutti e per tutti anche la possibilità di fare sport e divertirsi. Secondo lei pensa che i mondiali antirazzisti possono lottare con il razzismo? Assolutamente sì, la questione del razzismo è anzitutto una questione culturale. Se ci sono iniziative di questo tipo in cui si insegna alle persone che cosa significa razzismo, che cosa significa fascismo, si parla di questi argomenti, si discute di questi argomenti, questo vuol dire una crescita culturale per tutti e la possibilità che nel futuro, un domani, tutte le persone che vivono su questa terra si considerino uguali, indipendentemente dal colore della pelle, dalla razza, dalla religione. Uguali. Secondo lei pensi che i mondiali possono aiutare agli stranieri, ai ragazzi che vengono da tutti i confini a integrarsi? Assolutamente sì, lo sport in generale è un grande elemento di integrazione. I bimbi piccoli quando giocano nelle squadre non guardano il colore della pelle, giocano, stanno insieme e lo sport è questa grande cosa. I mondiali antirazzisti si occupano proprio di questo, di far stare insieme persone che vengono da tante parti del mondo, che hanno anche idee diverse, religioni diverse, mentalità diverse, che però stanno insieme innanzitutto nel gioco, nello sport, e poi magari oltre il gioco riescono anche a parlare di altro, a parlarsi di altro, a crescere culturalmente. Qual è il messaggio che potete lasciare alle altre persone e alle squadre che vengono a partecipare ai mondiali? Partecipate, continuate a partecipare, diffondete tra i vostri amici, tra le persone che conoscete l'importanza di questa iniziativa e magari nel vostro paese quando tornate portate un po' di mondiali antirazzisti in Bosco Albergati con voi, magari speriamo nel vostro paese nascerà un'iniziativa come questa. Grazie mille. Grazie.